cultura, innanzitutto sulla struttura olistica dell'uomo, capire come siamo fatti, diciamo, non dal punto di vista biologico, ma dal punto di vista olistico. Cosa significa? Avere un'infarinatura perlomeno di quali sono gli stati di esistenza che sono in ogni essere umano, quindi la parte fisica, la parte eterica, la parte emotiva, la parte mentale, la parte animica, la parte spirituale, e avere questa, insomma, visione. Una volta che si ha questa visione, si capisce come le emozioni, i pensieri incidono sul corpo eterico, come il corpo eterico comunica col parasimpatico e il simpatico, come il parasimpatico e il simpatico mettono in moto l'endocrino e come produciamo gli ormoni. Allora, una volta che si ha questa catena in mente, si ha anche in mente, si capisce meglio come la meditazione riequilibri tutto. Ma siamo ai primi passi, è un po' un'università delle cose queste, no? Quindi non posso introdurre questi argomenti, non perché non abbia fiducia in voi, ma per molti di voi siamo alla BC, insomma, no? All'asilo, c'è di no, alla BC, elementari, no, non siete più, tu conosci bene questi argomenti, quindi segui da anni, ma non tutti hanno questa dimestichezza, quindi sarebbe solo una questione di confusione. Pensiamo solo che la scienza moderna, che parte da sotto, non da sopra, cosa intendo da sotto? Parte dalla materia e sale, no? Dalla materia più grezza e va verso l'alto, tenta di andare verso l'alto, mentre la spiritualità, lo studio olistico parte dall'alto verso il basso. La scienza sta cominciando a capire che questo sistema che la materia messa in moto dalla materia più sottile, messa in moto dalle emozioni che sono materia più sottile, le energie mentali, eccetera, è un meccanismo che dà luogo a tante cose. Infatti le più recenti discipline di questo tipo, tipo la PNEI, ne avete mai sentito parlare? La PNEI? PNEI. Psico, neuro, endocrino, eccetera, e non fanno altro che prendere dal punto di vista olistico, però avvalendosi degli strumenti scientifici. Beh, anche l'epigenetica. Anche l'epigenetica, le leggi di Hammer, insomma, ormai ci sono, stiamo assistendo, siamo un po' usciti dal meccanismo puramente materialistico che è andato da fine 800 a metà 900. Ci sono ancora gli strascichi potenti, insomma, che ce la raccontiamo, l'impianto di base è ancora quello e su quello si sostiene, ma le crepe sono evidenti e in queste crepe si stanno infilando un sacco di nuove discipline. La medicina narrativa, che poi è molto recente, è una roba. Ho una mia amica collega che sta facendo questo percorso, ha fatto questo percorso di medicina narrativa, mi raccontava, veramente agli antipodi rispetto a, non so, all'idea chirurgica e basta, no? Ti tagli un pezzo, te lo sostituisco con uno nuovo, stile concessionario, autofficina. Non che non funzioni, funziona, ma sappiamo bene che c'era uno studioso, forse uno studioso ancora vivo, padre del crudismo, sapete cos'è il crudismo? Sì, quelli che mangiano crudo. Padre del crudismo, che era uno scienziato, un alimentarista di fama internazionale, che diceva, c'era una frase famosa, mi è sempre rimasta impressa, diceva: i chirurghi possono tagliare ogni cosa fuorché le cause. Questo è molto interessante. Sì. No? Sì. Magari. Come? No, è americano o inglese o americano. No, inglese o americano. Va bene, siamo questi? Credo di sì, non c'è nessun altro fuori. Aspettiamo proprio un minuto o due e poi partiamo. Qualcuno ha scritto che non poteva venire. Sì? E intanto facciamo chiacchiere per un paio di minuti finché così risparmiamo tempo per dopo. Com'è andata questa settimana di pratica? confortarmi. È andata. Come diceva Caro, sempre meglio. Sempre meglio, sì. Riuscite, non riuscite, quali sono? Sì? La mia non tanto bene, nel senso che è stata quella più difficile, probabilmente. Ma non perché ho fatto fatica ad alzarmi, ho fatto fatica a mettermi la media, assolutamente, perché ormai quella è una cosa che è entrata in me, per cui va in automatico, cioè ci si alza, si beve un bicchiere d'acqua con la goccia di limone, si dà la papa ai amici e si fa meditazione. Perfetto. Quindi, però, nonostante essere mentale tutto il resto, il fatto di essere presente, il respiro, di sentire niente, la mente continuava, ma in maniera naturale, non agitata o altro, non è molto semplice. A prescindere dal fatto che abbiamo detto che non può andare male, no? L'unica differenza è lo faccio o non lo faccio. Ecco, a mio modo di vedere, se non lo faccio va male, ma se lo faccio non può andare che bene, anche se passo tutti i 10 minuti, un quarto d'ora con la mente che vaga, perché lo sto facendo, lo sto esperendo, sto facendo l'esperienza. E vedrete che gli alti e bassi sono di tutti, cioè ci saranno sempre alti e bassi, anche a distanza di anni. Il problema è che piano piano stiamo decostruendo una modalità per ricostruirne un'altra. Quindi quello che stiamo facendo in questi 2 mesi è proprio decostruire una modalità. E qual è questa modalità? Che nel preciso istante in cui io non sono impegnato a fondo a fare qualcosa, qualcosa che attiri la mia attenzione, la mente vaga. E questo lo facciamo da tutta la vita. Non possiamo pretendere che 2 o 3 settimane di 10 minuti di meditazione al giorno cambiano. Non funziona così. Perché per tutta la vita, fino dall'adolescenza, perché da bambini è un'altra roba, dopo i 14 anni, più o meno, insomma, dopo i 14 anni cominciamo questa modalità. Nel momento in cui la nostra attenzione non è attirata da qualcosa che facciamo, la mente vaga. Quindi sono a occhio 20, 30, 40 anni che abbiamo la mente che funziona così. Come possiamo pretendere che assommiamo tutto di 10 minuti in 10 minuti, 3 ore di meditazione, cambiamo questa modalità? Saremo prima di tutto, io sarei mendace nei vostri confronti e voi vi stareste raccontando l'ennesima illusione. Quindi a prescindere dall'illusione, continuiamo a stare. Ti sei accorta che la mente vagava? Perché poi la mente è molto duttile, molto elastica, quindi si accorge immediatamente che c'è qualcosa di differente. Mi spiego meglio. E la normale distrazione è una pausa in cui quel mezz'ora, ora, non ci siete. A un certo punto vi ricordate di esserci. Sì o no? Se non sì. Qui non è così. Ti accorgi che la mente vaga? Quindi vuol dire che sempre di più vi accorgerete che la mente vaga. Quindi è già un'altra roba che semplicemente non ricordo dove ero nell'ultima ora e negli ultimi 3/4 d'ora. Non ricordo, non so cosa ho fatto. Però ho continuato a macinare. Quella è un'altra roba. Questa è, mi accorgo che la mente continua a scapparmi. Ma se mi accorgo che la mente continua a scapparmi, vuol dire che non sono la mente. Vuol dire che sono già in qualche modo in quella posizione di osservazione che un po' si irrita perché la mente continua a scappare. Ma è già un'altra roba. Convenite in questo ragionamento? Sì, sì, assolutamente. Questa deduzione aristotelica? E me capita qualche volta, no? Raramente. Di volare sopra il cuscino. No, di più. De più. Va bene, si può. Che so, magari sono in camion, no? Sì. E vivo di muovere. Tieni aperto gli occhi, eh? Sì, sempre. Mi sempre amo. Perché sono con la bomba in mare. Sì. E mezzo è sempre una bomba, sono consapevole. No, prima. Cos'è che so sto momento qua? Sono talmente assorto che. Però cos'è l'Alzheimer? Forse perché merito troppo, non è vedo. Speriamo sia l'Alzheimer. Allora, Va bene, allora, altre testimonianze? Io posso parlare? Sì, sì, sì. Non so se è stupida, ma... Non c'è mai niente di stupido. Io non so quando sto meditando. Nel senso, se scelgo determinati pensieri, seguo dei pensieri, ma meditare lo stesso... Anche senti di esserci? Sì. Allora? Va bene. Cioè, se tu ti vedi in riva al mare, oppure visualizzi qualcosa... Sì. Ecco, anche la visualizzazione, il sentire il cuore, eccetera, eccetera. Ma sento di esserci in quel momento, o sento che non so dove sono, la mente è completamente obnubilata da altri pensieri, sono identificato nelle cose che sto facendo, che sto pensando, scusate. Se sento di esserci, anche se ho la mente piena, non è che è proprio meditazione sì. profonda, ma solo nella presenza. Ah, è interesse questo adesso. Interessa questo. Cioè, non mi interessano i passaggi successivi. Non mi interessa di raggiungere Ekagrata, non mi interessa di far sorgere Piti, non mi interessano queste cose qua, che sono delle fasi a cui approderemo se continueremo a meditare. Sono delle fasi attraverso le quali si passa nel momento in cui tutto si acquieta, il corpo è morbido, la mente è ferma, si sale. Il Kagrata è un punto in cui la mente è unita col tutto. Ma a me non me ne frega niente, sinceramente. Ora non mi interessa. Ma se già per qualche minuto durante la mia pratica giornaliera sento che sono un po' in pace, il corpo è morbido, sento di stare bene, magari mi sorge anche un mezzo sorriso. Poi la mente magari vedo che passa un sacco di pensieri, però sto col mio respiro, sento che poi ho qualche beneficio quando ho finito, cioè mi sento più morbido, più sereno. Ho fatto bingo, capite? Tutto il resto per adesso non è importante. Non è importante. Quindi non facciamoci nemmeno la domanda sto meditando o non sto meditando. Nel momento in cui sorge la domanda, ma sto meditando o no? Sicuro che no. Perché se mi sto facendo domande, sono nella mente duale. Cioè sto giudicando uno stato in cui sono. Quindi anche lì, sorge quella domanda, osservo la domanda. Perché mi sono fatto questa domanda? La lascio andare. Cioè piano piano la mente diventerà veramente un unicum eterogeneo, in cui non c'è più nulla che possa impattare per crearmi una dualità interna. Sto bene, sto male, ah che bene che sto, ah che male che sto, sto sbagliando tutto, sto facendo tutto giusto. Sono comunque posizioni, mi seguite? Se assumo una posizione, sono nella mente discriminativa, reattiva, razionale, quella che abbiamo detto, è la mente che mi serve tutti i giorni per relazionarmi. Quella mente lì è fondamentale, ma in meditazione non serve. Per farlo diventare uno strumento e per non essere io strumento di quel tipo di mente, devo accorgermi che quello strumento si mette a funzionare. Mi seguite su questo piano? Di solito quando si mette a funzionare, semplicemente io ne sono rapito, mi vado dietro. E quindi quando si mette a funzionare porta con sé, abbiamo detto, tutto quell'ambito emotivo di cui abbiamo parlato l'ultima volta, che semplicemente mi trascina con sé perché ha una polarità. Ma se io mi accorgo che inizia a funzionare, e quando è che me ne accorgo? Quando mi dice stai facendo male, stai facendo bene, ah che brava che sei, ah che bravo che sei, ah che fai schifo. In quel momento ha cominciato a funzionare. La lasci che funzioni, tu stai con te, nel respiro, nel corpo, e lasci che lei giudichi, non giudichi, pensi, non pensi, rifletta, non rifletta, navighi con le... lascia cioè che faccio quello che devi fare. Spesso viene paragonata al cagnetto, no? Ve l'ho fatto anch'io sul paragone, lasci che il punzale è lungo, poi lo ritiri su, la riavvicini, eccetera, ok? Bene, allora, stasera abbiamo un sacco di robe da fare. Cominciamo con la nostra pratica lunga, quindi ci mettiamo in Shavasana. Come sempre quando ci mettiamo in questa posizione, ormai siamo abituati un po', cerchiamo prima di tutto di liberarci da eventuali lacci, da qualcosa che ci stringe, ammorbidiamo pure. E poi osserviamo quei punti del corpo che, come sapete, sono un po' più delicati, quindi i lombari, e se mettiamo sopra un cuscino o qualcosa, una felpa, e la nuca. E se abbiamo tensione, anche qui utilizziamo la maglia, un cuscino. Le braccia sono lungo i fianchi, le palme possibilmente rivolte verso l'alto. Gli occhi sono morbidamente chiusi. Facciamo qualche bel respiro più profondo, 2 o 3. Lasciando che l'aria esca un po' tutta. Liberiamoci dell'aria. Dopodiché, piano piano, lasciamo che il respiro si faccia più normale. Vedrete che piano piano il ritmo del respiro tende a rallentare un po', a farsi un po' più lento e magari anche un pochino più profondo del solito. Iniziamo lasciando che il corpo si abbandoni, che il corpo sia lasciato andare proprio sul tappetino. Lasciamolo proprio che si adagi. E se incontriamo qualche tensione, se avvertiamo qualche tensione, cerchiamo di scioglierla in espirazione. Quando espiriamo, lasciamo andare, molliamo. Ed ora portiamo l'attenzione alla sommità del capo. In quel punto, che è proprio la sommità del capo, che viene chiamato anche la fontanella, è proprio un punto che si trova nel punto più alto del della nostra testa. Portiamo l'attenzione in quel punto. Ed immaginiamo, proviamo a sentire come ad ogni respirazione si manifesti piano piano una luce. Ad ogni inspirazione questa luce si fa più vivida, più luminosa. E ad ogni espirazione, invece, questa luce tende ad avvolgermi. Mi avvolge piano piano, iniziando dal capo. Quindi quando inspiro, la luce aumenta. È una luce calda, avvolgente, che mi risana, che mi cura. E quando espiro, questa luce mi avvolge il capo, i scivoli. scende sul volto, piano piano, lentamente, il collo, inspiro, la luce aumenta, espiro, la luce mi avvolge. E seguendo il nostro ritmo del respiro, lasciamoci avvolgere completamente, scendendo lungo il corpo. Sentiamo come protetti, massaggiati, come se questa luce ci risanasse, si prendesse cura di noi. Lentamente lasciamo che questa luce ci avvolga completamente. E ci aiuti a purificarci, a prendersi cura di noi. E se vogliamo, se lo sentiamo, possiamo espandere questa luce per aiutare anche i nostri compagni, quelli che abbiamo al nostro fianco, per purificare anche loro, per aiutarli e avvolgerli in questa luce che ci aiuta. L'importante è che siamo molto attenti, molto presenti, non ci stiamo addormentando. Osserviamo questa luce, questo calore che piano piano ci risana, si prende cura di noi. Ora lentamente, aiutandoci sempre con il ritmo del respiro, riprendiamo questa luce che ci avvolge, torniamo a tenerla vicina al nostro corpo. Quando inspiro, la luce aumenta di intensità, quando espiro, piano piano la raccolgo e la raccolgo vicino al cuore, come se questa luce ora volesse sentirla raccogliersi completamente nel cuore. quando la sento che scalda e nutre il mio cuore. Lentamente iniziamo a riprendere contatto con il nostro corpo, con piccoli movimenti delle estremità torniamo a sentire i piedi e le mani, torniamo a sentire le braccia e le gambe e piano piano torniamo a riabitare il nostro corpo fino a quando sentiamo di poter riaprire gli occhi. Una volta riaperti gli occhi, rimaniamo per qualche momento ancora in questa posizione, per prendere contatto con l'ambiente circostante. Dopodiché, lentamente, iniziamo a rimetterci seduti sul tappetino, ricordando di ruotare sul fianco per non danneggiare la schiena. Cercando di mantenere questa compattezza, di non perderci in distrazione, ci alziamo i piedi, ci mettiamo con i piedi sul legno, non sopra il tappetino. Sono qualche breve esercizio di respirazione. I piedi sono all'altezza delle spalle, quindi posso aprirmi a batere e poi raddrizzarmi, così sono all'altezza delle spalle. Le ginocchia sono lievemente piegate per scaricare il bacino. Le braccia sono lasciate cadere lungo i fianchi. Qualche esercizio di respirazione in questo modo. Inspiro e porto di fronte. Poi espiro e lascio andare. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Posso farlo ad occhi chiusi per non seguire il ritmo degli altri. Devo farlo con il mio ritmo. Lasciamo cadere le braccia lungo i fianchi. Ora apriamo bene il torace, quindi mani sulle spalle. Inspiro e apro. Espiro e chiudo. Di nuovo. Butto fuori tutto. impari, è tutto, tutto, tutto. Di nuovo. Ultimo. Braccia lungo i fianchi, di nuovo. Ora seguite me, quindi mani incrociate davanti al bacino. Inspiro fino al torace, ruoto ed espiro fino a quando non spingo in alto, in alto, in alto, in alto. Qui mi fermo, inspiro ed espiro, fuori tutto di nuovo insieme, inspiro fino al torace, ruoto ed espiro spingendo in alto, fuori tutto, tutto, tutto, tutto, rimango fermo, inspiro, e poi espiro scendendo. Ognuno per conto suo, per un paio di volte. Chi è finita anche la seconda volta, braccia lungo i fianchi. Ascoltiamo bene il corpo. Ginocchia leggermente piegate. Il corpo si è un po' scaldato. Abbiamo riempito bene i polmoni. Portate ora l'attenzione alle piante dei piedi. Osservate bene le piante dei piedi. Vi accorgerete di come tutto è sempre in movimento. Sempre in movimento, mai nulla è fermo. Mantenendo questa compattezza senza perdere la vertice in distrazioni, ci mettiamo nella nostra posizione di meditazione. Seduta. Prendiamoci il tempo necessario per sistemare il corpo, sistemare i vestiti, in modo che poi non ci risultino come una distrazione. La schiena è sufficientemente dritta, mento lievemente abbassato, occhi morbidamente chiusi, mani in grembo sul ginocchio, come vi trovate a me. entriamo subito in contatto con il nostro respiro. Cercando di entrare subito in una condizione di presenza, di pace, di osservazione di tutto ciò che sorge dalla mente e dalla realtà che ci circonda. Stiamo imparando a stare in quel nucleo di presenza, in quel centro di pace e silenzio che è il nostro essere. Quindi piano piano concediamoci di stare in quel centro di pace, in quel nucleo di silenzio e presenza. E da quel punto possiamo osservare ogni fenomeno che sorge dalla realtà o dalla nostra mente. Rimaniamo sempre in osservazione. E lo facciamo cominciando osservando il respiro. Il respiro è un grande amico. Un amico che ci aiuta a stare in quel centro e a darci un ritmo. Siamo grati per questo amico che ci fa da timoniere, è un po' una guida nella nostra pratica. Cerchiamo quindi di stare in questo centro, di rimanere a contatto con questa presenza silenziosa. E lo facciamo proprio nel silenzio, fino a quando non sentirete il suono della campana. Bene. Le pratiche miste così ci aiutano a stare comunque in un centro, anche se cambiamo posizione, cambiamo situazione. Proviamo, anche se è un po' dinamica, perché da distesi ci mettiamo in piedi, facciamo degli esercizi, mettiamo fermi, sediamo. Quello che mi interessa è continuare in tutte queste situazioni e continuare a stare, a rimanere, ad abituarci. Perché in questo modo poi portiamo questa modalità anche fuori. Ogni cosa che facciamo, dove siamo, con chi parliamo, proviamo sempre a rimanere con noi stessi. Okay? Questo è il modo più protetto, naturalmente, che sono tutte pratiche di consapevolezza, però da l'una all'altra sono dei piccoli spostamenti, dei piccoli cambiamenti, mi guardo attorno, sento, eccetera. Un'altra tecnica, e poi passiamo alla seconda parte, tecnica, comunicazione di servizio. Perché prima mi è stato chiesto, allora, questo percorso finirà, se non sbaglio, il 16 di novembre, dovrebbe essere. Quindi da là, com'è? Novembre. Sì, dovrebbe finire il 16 novembre, se non sbaglio, poi il prossimo è il 2, poi c'è il 9, va occhio, e poi il 16. Dalla volta dopo noi partiremo già, chiaramente lì dovete decidere voi, cioè io sono qua, lo faccio, che dipende se siamo io e Alessandro, magari no, ma se siamo, se il gruppo continua e vede che insomma voglia di continuare, cominciamo con il Brahma Vihara. Come vi ho detto, le quattro virtù dell'amore, le quattro sfumature dell'amore, sono quella parte di questi quattro moduli che serve, è utile per ammorbidire la mente che per due mesi abbiamo un po' tenuto. Perché? Perché lo so, adesso per voi spesso è uno sforzo mantenere la mente un po' compatta, quindi siccome siamo abituati un po' a sforzarci per avere risultati, non abbiamo ancora appreso che dobbiamo mollare del tutto, a volte invece cosa succede? Che in meditazione cerco proprio di tenere la mente ferma, e quindi l'idea è che dopo un po' cominciamo ad irrigidirci. Quindi introduciamo i Brahma Vihara non solo per questo, ma anche per coltivare la gentilezza amorevole. Quindi sarà un mese, dal 30 fino insomma, a metà dicembre, in cui ci aiuterà questo percorso a diciamo così, stare in una modalità un po' diversa, cioè la mindfulness, ma su questa e questa la arricchiremo con tutte quelle diciamo così, sfumature di gentilezza che ci aiuteranno ad ammorbidire e ancora entrare più in profondità, ok? Ad esempio, dove io ho fatto il master di mindfulness, siccome c'è proprio per, non è come gli altri luoghi dove si fa mindfulness in Italia, ma c'è questa, infatti io l'ho scelto per quello, perché conoscevo un po' la mindfulness, c'è questa liaison, mi viene un altro termine, tra la parte mindfulness e la parte di gentilezza amorevole, che è puramente buddista, è proprio tibetana, che dà al genere quella che è stata chiamata la deep mindfulness, cioè si entra ancora più nel profondo perché si prende contatto col cuore, mentre la mindfulness tende un pochino per sua natura a rimanere solo nella mente, che non va male per la mente di un orientale che è già abituato per tradizione a stare in una mente che è a contatto col cuore. Per noi occidentali, che siamo solo mentali, tendiamo a scivolare un pochino in una mente fredda, a livello di calore proprio, ok? Bene, quindi chi vuole, adesso non so, dal 30 si parte per 4 incontri, e poi chi vorrà ancora continuare per finire tutto questo percorso, si partirà poi da metà gennaio, lì vedremo le date e ve le comunicheremo. Sempre di giovedì? Sempre il giovedì quest'ora si va avanti. Sì, sì, sempre questo l'orario, semplicemente proseguiamo. Okay. Solo che quattro incontri però, non otto. Okay. Ecco, otto è solo il base, perché è necessario, sono anche pochi, ma insomma questo passo. Allora partiamo con la seconda parte, che è quella importante, perché partiamo col secondo mese proprio questa sera, se non sbaglio, e meditazione camminata. Ok? Quindi stasera proviamo la meditazione camminata, siamo neanche in tanti, quindi insomma andiamo anche per certi versi meglio, ma lo faremo alternati, adesso vi spiego un po'. Okay. Allora, la meditazione camminata, come vi dicevo già nelle presentazioni, ma forse in una delle primissime lezioni, è fatta in due modi sostanzialmente. Il primo modo non lo facciamo qui, ma vi prego di farlo in giro per la vostra vita, durante la vostra vita. In che consta? La meditazione camminata mindfulness è semplicemente andare più piano. Non è una roba così sanscrita, bella. Sarebbe da buoni veneti. Sì, no, no, piano. No, sì. No. Il veneto in media spessa, grazie. C'è neanche la traduzione in italiano. Non lo dirò io. Molto più da shopping. Ah, sì. Allora, voi di solito tutti noi si cammina a questa velocità qua. E quando vengono camminare così mi chiedono. L'idea è di camminare a questa velocità, ok? Questa. E meditare. No, è già una forma di meditazione. Vi assicuro che se voi camminate durante la vostra giornata a questa velocità, state sicuri che la mente torna. Perché? Perché la mente è curiosa, e quindi se camminate a questa velocità, quelli che vi vedono diranno, non vedi se qua. Non voglio neanche cagare. O in pensivo. VIP seria, no? Esatto. VIP, invece pensivo. Allora, e quindi semplicemente andate più piano. Vedrete che questa è una roba. Non è che mi sono inventato io, il Kabat-Zinn lo insegna. La mente, siccome è curiosa, e il ritmo, quando è che scatta l'automatismo? Quando un ritmo è tenuto per tanto tempo. Guardate che è tutto così, tutto così. Se voi mantenete uno stesso ritmo per tanto tempo, questo va sotto il livello della coscienza, quindi la mente può distrarsi. Mi seguite su questa cosa? Sì. Funziona tutto così. Tutto. L'udito funziona in questo modo, la vista funziona in questo modo. Sapete perché non siamo ciechi? Perché le pupille continuano a fare micro spostamenti a destra e a sinistra per essere costrette a mettere a fuoco. Se rimanessero completamente ferme non vedremo nulla. Lo stesso vale per l'udito. Se noi ci abituiamo agli stessi rumori per tanto tempo non li sentiamo più. La gente che dorme vicino alle ferrovie o vicino a una campane di aceto, io ho vissuto per anni vicino attaccato alla chiesa. E le persone che parlano sempre con lo stesso tono, dopo un po' se ne ascolti più. Non le ascolti più, sì. Ma è proprio i sensi sono fatti così, ma tutto è fatto così. Gli odori uguali, entri in una stanza, c'è un odoraccio e quelli che ci sono dentro fanno, assolutamente. Funziona tutto così. E quindi se voi mantenete questo, se invece mantenete un ritmo blando, la mente curiosa torna, e siccome lo fate poche volte, vi tornerà sempre, perché poi dopo un po' ricominciate a camminare veloci. Però questa era mindfulness, la camminata mindfulness. Noi facciamo invece la camminata che si fa nei monasteri, quella che si fa durante i seminari di Vipassana, che è quella che vi prego di fare, che faremo insieme qui, quindi non ci sarà tanto tempo di farla, ma fatela a casa. Mentre questa no, non fatela all'aperto, se no li mettete via, ok? Chiamano il concedente. Infatti quando sei nei centri, nei monasteri, si entra e si vede subito che è un luogo, uno se non sa, entra e fa, questo è un nosocomio, è un manicomio, un posto davanti, quindi tutta gente che si guarda i piedi e cammina in mezzo. Oppure un paradiso. Sì, a volte quando a volte mi astraevo, oppure non era il mio turno, eccetera, che uscivo devo andare, non so, da quelle robe, e allora avevo la camminata all'interno e guardi, non so, alle 3 di mattina, alle 5 di mattina, con sta nebbiolina e vedi sti zombie. Dove sei? Ma tanti distinti. Allora, semplicemente in casa è sufficiente avere 4 metri, 3-4 metri, ce li abbiamo tutti in casa, perché se camminate a questa velocità qua in giro tutta la casa, magari prendo il mio appartamento, io ho visitato. Invece si parte a piedi uniti, ok? Si può anche partire con qualche respiro, anche magari sentendosi il diaframma, oppure semplicemente stando un pochino con se stessi. Dopodiché si parte con il primo passo, destra e sinistra indifferente, come siete abituati. E quando si parte lenti, ok? Quindi lenti non vuol dire proprio una roba sentite, cercate di fare lentamente, in modo che si ascolta ogni movimento del corpo, il ginocchio che si piega, il tallone che si alza, e poi il momento in cui si appoggia di nuovo il piede. C'è anche un momento in cui io alzo il piede che c'è un minimo di disagio, perché si è in disequilibrio, quindi cerco di nuovo di mettere il piede giù, poi stacco il piede da dietro, passo in maniera lenta, passo davanti, poi di nuovo appoggio, ok? Quindi io faccio in maniera lenta. Quanto? Si può cominciare anche facendolo così, in maniera abbastanza veloce, e poi magari provare a rallentare, perché non siamo abituati. Quindi se io lo faccio a questa velocità qua, lentissimo, si sente addirittura la pelle che si stacca e poi c'è questo passaggio lentissimo, non sono abituato, perdo l'equilibrio e magari dopo cerco di recuperare, ok? Lo faccio per 3-4 metri, quindi se partite da lì arrivate fino a metà, ok? Un po' più di metà. Poi quando arrivo in fondo rimango sempre compatto in presenza, quindi non è che mi giro, prendo le misure, dove c'è la troia, no, mi giro in maniera fluida, ci sarebbe anche il metodo, tacco, tacco e riparto, ma insomma non si pretende tanto. Semplicemente quando arrivo in fondo mi fermo un attimo, poi mi giro e fluidamente torno nella mia meditazione camminata, ok? Lenta, ascolto bene. Sento com'è, sento com'è, come si muove, sento tutto quello che... Allora, c'è anche una piccola postilla filosofica che mi piace portare quando si fa questa camminata, perché ha a che fare con la vita, la camminata, no? Thich Nhat Hanh mi ha spiegato bene nei suoi testi, perché? Perché qui siamo fermi nel momento presente, ok? Dal momento presente andiamo verso il futuro. Quindi quando alziamo il piede, possiamo portarla anche questa riflessione nella nostra camminata. Quando, su cosa succede quando alzo un piede per andare verso il futuro? Ti sposti da sempre. Non solo, ma perdo l'equilibrio. Perché? Perché andare verso il futuro è sempre un collino, no? E quindi non si sa bene cosa c'è, dove metto il piede, no? E nel momento in cui lo appoggio e questo sta diventando il mio presente, che cosa sto lasciando? Passato. Sto lasciando il passato. Quindi a volte si fa fatica a staccare il piede dietro, no? Perché il passato. E quindi poi si passa al presente fino a quando riparto per andare verso il futuro. Okay? Questa è un po' una riflessione. Quindi anche quando fate la camminata, state comunque facendo, no? Un percorso anche interiore. Come la facciamo? Perché la fate voi, non mi interessa. La facciamo alternati. Perché siamo in tanti e siamo due file. Come? Allora, ci alziamo in piedi, vi spiego. Il vostro luogo dove meditate seduti deve essere pronto. Perché? Perché mediterà, farà la camminata una metà e l'altra metà aspetta. La si fa sul legno, non fatela sulla... ok? L'altra metà aspetta, cosa vuol dire? Vuol dire che partirà questa parte qui. Voi, intanto, per il primo giro, semplicemente state in piedi e ascoltate il corpo, in silenzio, con gli occhi chiusi. Non guardate loro che meditano camminando, non ne so niente. State con gli occhi chiusi, quindi ascoltate il corpo, i rumori che ci saranno, e loro al suono della campana, loro partono e cominciano a fare la camminata, ok? La camminata. Avanti, indietro, avanti, indietro. Si sta col respiro, si sta con il corpo, si sta col movimento. Ad un certo punto suonerà un'altra volta la campana. Voi aprirete gli occhi e voi vi avvicinerete al luogo di meditazione e comincerete a meditare da seduti. Si fa meditazione. Quindi vi sedete, state in meditazione e loro camminano, camminando. Ok? Ci sarà un altro suono della campana, voi aprirete gli occhi, loro andranno, voi andrete sul vostro luogo di meditazione e comincerete a meditare da seduti. Ok? Finché loro meditano seduti, voi vi alzate e si fa la camminata e così via, alternato col suono della campana. Ci siamo? Sicuri che non fate confusione? Vi vedete attesi. Cioè, sono la campana, uno sa sentire, cammina, che altro sa sentare. È più semplice così. No, vi faccio, ve la ripeto. Allora, voi fermi e ascoltate il corpo. Loro al suono della campana camminano. Secondo suono. Loro. Quando voi non è che se vi trovate qui sentite il suono della campana. Ok? Siete qui, semplicemente ritornate. Quando tutti sono seduti voi vi alzate, cominciate a camminare. Chiudo le luci perché così si va meglio. Quindi un ventrifo, però vi faccio un po' di. Ok, al suono della campana, poi cominciate. Voi dovete stare fermi per un po'. Di buona pratica. ascoltando come sta il nostro corpo dopo aver fatto la meditazione camminata, rimanendo nella nostra pratica di respiro corpo per qualche minuto in silenzio fino al suono della campana. Una luce prima del feedback, due notarelle tecniche. Su sulle vostre camminate. Allora, era prima, oltre che il rovento, cerchiamo di appoggiare prima il tallone. Ho visto più di qualcuno andare giù con la punta. Cerchiamo, se è possibile, di appoggiare il tallone più morbido ed è il primo meglio equilibrio. Quindi tallone, punta, poi tutto il movimento è lento e fluido, se no si trasforma nel passo dell'oca. Conoscete questo? Sì, sì. Ho visto molti fare, non è sbagliato, però il movimento è tutto morbido e lento, quindi anche quando passo da un passo all'altro sento che tutto il movimento è lento fino a quando non riappoggio il piede. Quindi invece spesso per ritrovare l'equilibrio veniva fatto questo. Allora questo non è lento, è lento il pezzettino. Sincopo, un passo sincopato. Stiamo andando a ricercare la velocità. Quindi cerchiamo proprio che tutto è fatica, perché? Perché se metto il passo troppo in là, quando arrivo a questo punto qua, non sto più in piedi, e quindi mi rabatto con la parte. Ma c'è il passo più corti, non vedete fare passi da metro. State andando al supermercato, state a chiudere, dovete fare 4 metri, quindi posso fare passi molto corti, faccio cortissimi, in modo che tutto è molto molto lento, ok? Boh, basta, queste sono le note un po' tecniche. State sempre sul respiro, cercate di non guardare in giro, di non... poi se sentite che perdete l'equilibrio, quindi accorciate i passi, poi fermatevi un attimo, mettete giù il piede, poi ricominciate, non avete paura di non c'è sbaglio, ok? Qualche feedback? Come vi è sembrato? Com'è andata? È stato utile? È stato pesante? È stato... è sorto un po' di imbarazzo? È strano dover controllare il passo, perché è talmente automatico che non ci pensi mai. Che se dici, sarà una stupidaggine andare piano, no? Sono bravo a andare veloce? Sì, anche andare veloce, sono bravo, andare piano sarà più semplice. Io l'ho trovato sgradevolissimo. Sgradevolissimo. Il primo giro per me è stato difficile, a parte un po' l'imbarazzo. Mi sono sentita perdere molte volte l'equilibrio, diciamo che sei una foca che non riesci a camminare. Cioè, c'è stata proprio la difficoltà anche del contatto, cioè di realizzare il contatto per un tempo così, perché è una cosa che non penso, nel senso che tu fai e fai, ma il pensare che il piede tocca per terra è per cui... è diventato tutto molto strano. Quando mi sono seduta, avevo le gambe rigide, soprattutto la sinistra, sì, e quindi ho proprio realizzato che non era solo il camminare, era proprio ero rigida. Ti eri rigidita un po' più. Già il secondo invece è stato molto più morbido. Più morbido, più pacifico. Io ho tenuto gli occhi aperti, devo dire la verità, certo. Perché sì, con gli occhi chiusi non riuscivo. No, con gli occhi chiusi. Io ogni tanto li ho chiusi. Su questa fila vedevo molti con gli occhi chiusi, diciamo, io mi uccido se... L'avrei specificato, no? Mi cappotto giù e quindi lasciarla tranquilla e le prendiamo un po' il controllo. Penso che la prima volta non sia pensabile riuscire a meditare, la prima volta cerchi il passo. Sì, quello che a me interessa è tanto prendere dimestichezza con la meditazione camminata, anche perché è una delle pratiche che è necessario in qualche maniera imparare. Poi è vero, pochi la fanno, però è anche vero che è molto propedeutica, ad esempio, poi a star seduti. Non so se avete vissuto che poi, mettendosi seduti, il corpo si rilassava, la mente era più presente. Quello che si fa la camminata è molto, di norma, non tutti, è molto utile poi per quando si fa la meditazione seduta. Quindi ora che l'avete come pratica, se al mattino vi sentite un po' agitati, un po' distratti, un po' stanchi in queste situazioni, fate prima di mettervi magari un minuto, due, e fate questa cosa e poi vi sedete. Vedrete che ne avrete giovamento, perché aiuta. Cioè, soprattutto è difficile prendere sonno camminando. Chiaro, io me lo auguro, che sarebbe uno svenimento. Domani chi è in ufficio? Sì, sì. No, insomma, no, no, no, no, no, così, io che sei no, 10 al mattino ogni tanto. Invece in piedi. Certo, in piedi è molto. Quando si danno per scontate certe cose. Sì. Ho detto, ma che cazzo, sai che se Dio viene questo qua che se. Oh, invece ho visto tanti barcollare, ma è giusto così, è giusto così. Allora, solo con un po' di pratica, ma tutto ciò che so, un po' di imbarazzo, la rigidità, la mente che osserva, la mente che giudica, la mente che dice non sto facendo bene, sei un manichino che si muove, tutte queste cose qui sono fenomeni che sorgono dalla mente, si riflettono sul corpo che si rigidisce e diventano fonte di osservazione. Come impostiamo l'osservatore se non abbiamo niente da osservare? Dobbiamo osservare tutto, quindi la camminata è molto utile perché mi dà un sacco, mi fornisce un sacco di stimoli. Anche non so, gli altri mi staranno guardando, sto facendo male, e mentre mi guardo faccio schifo quando cammino, e quindi di no, avrò capito giusto, adesso devo sentarmi, no? E quando suona la campana, cacchio, devo fare. Perché questa è la mente distorsiva. Adesso lo sarà campana, cosa faccio? Vado gli altri sono andati. Ma questa è la mente distorsiva, è la mente da osservare, piano piano comincio sempre di più ad osservare. E tutte queste esperienze sono fondamentali. Oltre a questo c'è una pratica in più che vi prego di utilizzare quando potrete, e in più avete vissuto in piccolo quello che magari un giorno andrete a fare quando farete un ritiro da 15, 20, 10, 30 giorni, che si fa questo tutto il giorno, dalle 4 di mattina alle 9 di sera, un'ora camminata e un'ora seduta. Un'ora camminata e un'ora seduta. Un'ora camminata, ma non c'è nessuno col ding. Suona. Beh, quando siete in sala c'è un cicalino che dice finita l'ora e quindi si va fuori e si cammina. Ok? E li avete vissuto. Un piccolo, una zip. Sì? No, scusate. Sì. La serata e la copertina di luce, sì, che le altre volte non avevamo visto, piano piano è stato sì. Per me un dono, cioè, oggi aspettavo probabilmente proprio questo, proprio un dono, e ringrazio tutti dell'energia perché mi aspettavo proprio questo, era quello che avevo bisogno e non l'avevi mai detto prima di... No, a mano o faccio tutte le... Su una sera faccio 5 body scan diversi su una sera. Per questo dico che è stata dinamica, è anche il suono della campana e poi la camminata finale. Cioè queste tre novità mi hanno riempita proprio di quello che... E questo su niente? Grazie, grazie. Ma intanto mi... Sì, certo. Un passetto. Esatto. Piano. Sì, un attimo. No, devo dire, nella camminata io ero uno di quelli che andavano giù così, no? Invece che col tallone. Ma faccio il proposito perché, fatalità, qualche settimana fa è stata un'esperienza di camminata anche di nudi e chi ci guidava... Diceva di andare giù con la... Sì, ci faceva notare che la camminata di tallone è una cosa che abbiamo imparato da quando abbiamo le scarpe, col tallone di stagione, no? Mentre... Beh, sarebbe giù di punta, sarebbe giù un po' piani così. Col piatto del piede. Esatto, sì. E quindi c'era questa cosa e c'era proprio questa cosa qua. Ma qui è un po', no, è giusto come osservazione, qui è un po' diverso perché la meditazione, non possiamo andare tanto in fondo perché sennò faremo un corso di Vipassana, questa è una parte del Vipassana. Cioè, sì, la pianta del piede che tocca andrebbe seguita tutta la parte esterna e poi la parte interna, ma soprattutto la parte esterna, quando va giù, ascoltare millimetro per millimetro tutto il piede che viene messo giù e poi viene alzato per ogni volta che metti giù il piede. Quindi c'è proprio, è proprio una procedura profonda, quindi ti insegnano in questo modo proprio perché c'è questo accompagnare mentalmente ogni movimento del tocco del piede. Quindi insomma, poi quando alzi il ginocchio che piega, cioè, se la fai nella modalità più cosa, proprio la mente piomba dentro al corpo e non si stacca più. Perché, ma non possiamo farla qui così, noi facciamo questa, intanto ci impratichiamo un pochino, insomma, quindi sì, l'osservazione è sicuramente giusta. Altre testimonianze? No, manca di mese. No, se c'è qualcuno che vuole. Una cosa superflua o magari distraente, pensare mentre si cammina pochi passi. Secondo me mi è rimasta impressa la frase del futuro e passato. Sì. E a me qualche passo è venuto a dire sto andando sul Sto futuro, andando in là col tempo. Sì, no, esatto, no, una cosa assolutamente. che. No, non è distraente, nel senso che è una riflessione interiore. Allora, noi confondiamo spesso la meditazione con lo svuotamento della mente, ma non è questo. Lo svuotamento, che però tale non è la contemplazione. E la contemplazione non si raggiunge per ora seduti. Se invece mi porto una riflessione di questa profondità, quindi sentire che io sto comunque incedendo nella vita, no? Sto andando avanti, che è un andare avanti di qualche metro, ma anche un incedere, procedere con le esperienze, stiamo facendo una nuova esperienza, quindi io sto andando verso il futuro, se me lo porto come riflessione profonda, ben venga, questa è meditazione. È il meditare, cioè lo stare della mente su un pensiero. Noi stiamo imparando a stare nel corpo per radicarla, ma piano piano impareremo anche a stare in alcuni pensieri che sono pensieri di grande profondità. C'è tutta una branca della meditazione, che è quello che pratico io, che è la meditazione analitica, che è basata su dei pensieri seme. Questi pensieri seme vengono lasciati depositare sulla mente. E la mente prima o poi li porta a fruttare fino a quando non diventano fonte di intuito. Ma è una pratica molto particolare. Io la pratico da tanti anni perché quella è una specie di branca del Raja Yoga, Raja, il culmine della testa. Quindi portiamo anche qualche riflessione. Prima vi ho dato questo spunto perché può essere utile sentirsi in questa riflessione. Ciò che non dobbiamo fare è camminare pensando alle burrette, pensando Bravo. a queste robe qua, no? Ai tasse, Io non andrei all'ADE, a parlare con voi. agenzia Non c'è niente. Io muso l'anno, non mentre. Vado a sbagliare. Subito alla testa, di la mente, tranquillo. Riassorbire. A me fa sorridere il discorso del passato e del futuro, perché ai primissimi passi ho detto niente, non vuoi lasciarlo, cioè posso appoggiare la punta, ma staccare quel passato ci entra in Questa punta di piedi, dice Gesù, certo, no? Per me è al contrario, ma non vedevo l'ora di andare di là, io invece resto là. però non vedere l'ora che andare di là non è come non staccare dal passato, cioè, però ci sono persone che magari fanno proprio fatica ad andare avanti perché hanno paura del futuro, oppure fanno fatica a staccare dal passato perché sono radicati nel passato. Di solito quando una meditazione camminata diventa profonda e viene prolungata per tanto tempo, ve lo dico che mi sono passato, perché quando cominci a fare un'ora di fila per tanto tempo nel giorno, stai sicuro che prima o poi questa riflessione sorge naturalmente e ti vedi che il corpo, siccome il corpo ha una grande saggezza e la grande saggezza del corpo si manifesta quando la mente è calma, cosa succede? Che se senti che il tuo piede non si sta staccando, vuol dire che c'è un radicamento nel passato dal quale non ti puoi togliere. Se senti che barcolli quando vai verso il futuro, significa che in qualche modo c'è qua in te qualche timore del futuro, magari quasi inconscio, magari ben celato, magari nascosto da quello che abbiamo tutto il giorno da fare, dai nostri pensieri. Ma se noi abbassiamo i livelli di guardia della mente, quella reattiva, e il corpo prende un po' il sopravvento, la saggezza del corpo si manifesta. Ok? Ad esempio c'è una pratica, un metodo potentissimo su questo che io sto apprendendo come allievo, che è il focusing, ad esempio, no? Che lavora tutto su queste cose. Bene, Prossima volta. mi auguro una buona fine settimana, ci vediamo e camminate piano. Grazie. Grazie. Grazie. Praticate. praticate un po' di lentezza durante il giorno, praticate un po' di lentezza.